253. Stracotto di vitella. Lo stracotto di vitella per condire la minestra di maccheroni o per fare un risotto col sugo è d'uso comune nelle famiglie della borghesia fiorentina. La cosa non è mal pensata se si considera che esso in tal modo serve a doppio scopo, cioè di minestra e di companatico. Guardatevi però dal disugar troppo la carne per voler molto sugo e sostituite in tutto o in parte l'olio, come si usa in Toscana, con la carne secca, che dà un sapore più spiccato e più grato. Eccovi le proporzioni per condire 250 a 300 grammi di maccheroni. Carne magra di vitella, compreso l'osso o la giunta, grammi 500, carne secca, grammi 50, burro, grammi 30, un quarto di una cipolla grossa, una piccola carota, due pezzi di sedano. Questi tre ultimi capi tagliateli all'ingrosso e la carne secca a piccoli dadi. Mettete al fuoco ogni cosa insieme e condite con sale e pepe. Voltate la carne spesso e quando sarà rosolata, spargete sulla medesima un pizzico di farina, annaffiatela con sugo di pomodoro o conserva e tirate la cottura con acqua versata poco per volta. La farina serve per legare il sugo e per dargli un po' di colore, ma badate che essa non bruci, che altrimenti gli comunicherebbe un ingrato sapore e un colore quasi nero che il sugo non deve avere. Passatelo e se gli darete odore con alcuni pezzetti di funghi secchi rammolliti prima nell'acqua calda e bolliti un poco nel sugo, non farete che bene. I maccheroni, cotti in acqua salata, scolateli bene, ma prima di servirli teneteli un poco nel sugo vicini al fuoco e conditeli con burro e con parmigiano a scarsa misura, perché questo si può aggiungere in tavola. Se trattasi di riso, cuocetelo nell'acqua versandola poco per volta a mezza cottura, aggiungete il sugo e un pezzetto di burro e prima di levarlo un po' di parmigiano, è bene mandare in tavola il pezzo dello stracotto con un contorno di erbaggi o legumi. Il lucertolo è il taglio migliore. Se vi servite di olio, basteranno circa grammi 20 di carne secca.